Radio Archimede, la nuova radio di Settimo Torinese che trasmette da Archimede e arriva in ogni luogo su www.radioarchimede.it. E rieccoci in onda, come tutti i martedì alle 15 su Radio Archimede. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, e questo è Sono Solo Nuvolette, programma contenitore, striscia settimanale, quello che volete, sulla cultura pop, parte dal fumetto e poi tocca un po' tanti ambiti. E oggi avremo occasione di toccare tanti ambiti diversi, infatti un'ora non ci basterà, quindi già chiedo a tutti e due gli ospiti un ritorno magari tra qualche mese. Non abbiamo ancora cominciato, già vi chiedo di tornare, quindi... E ho il piacere di avere qui con me, per chi guarda alla webcam, se www.radioarchimede.it ci vedete anche online in diretta, vedete anche le nostre brutte facce. E Sergio Giardo qui alla mia destra, che si era nascosto sotto un cappellino che hai da solo, invece hai adesso la cuffia, quindi hai rinunciato al camuffamento. E Sergio Giardo, disegnatore Bonelli e in questo caso autore di un romanzo che si chiama Roy Rocket, che chi guarda in webcam vede appoggiato al microfono. Stiamo cercando di fare un po' di... Okay. Se non c'è la mia pelata che spara e quindi non fa effetto luce riverbero, si vede. Si vede. E alla mia sinistra invece Alberto Alpozzi, fotoreporter. Avevo scritto fotografo, esatto. Ma fotoreporter definisce molto meglio quello che lui fa, perché è un percorso di narrazione attraverso la fotografia di certi luoghi. Io ho conosciuto Alberto per un lavoro di fotoreportage sull'Afghanistan che. intanto quando racconto a qualche amico, sì, ma questo mio amico sì, è andato in Afghanistan due volte a fare fotoreportage, e sicuramente il pelo in faccia ce l'hai, ma secondo me anche sullo stomaco. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao, grazie Fulvio. E anche tu hai un libro qui oggi, sì, che si intitola Il faro di Mussolini, che nasce da un discorso di ricerca storica e un saggio storico su qualcosa che nasce però da una ricerca fatta a seguito di un tuo viaggio. Esattamente, da un reportage in Somalia per documentare quello che era e che è tuttora la missione antipirateria nel Golfo di Aden. Ok. Tu devo fare un barabacci cicocco per non dare precedenza a nessuno dei due, da chi comincio? Fai parlare Sergio. No, Alberto è sicuramente più loquace e poi ormai è un conferenziere provetto, quindi comunque io lascio la parola. Poi io sono fondamentalmente un disegnatore, adesso prestato in qualche modo alla narrativa per ragazzi, ma fondamentalmente disegno, quindi le parole le lascio ad Alberto. No, ma io sono molto interessato al romanzo di Sergio, quindi dai. Voglio sentirlo in diretta. Dai. E qua davanti non so, non mi sono preparato. Dai, no, ma non c'è problema. Ti faccio delle domande, saranno molto difficili e problematiche. Beh, ho già la cuffia, sono pronto. E trascendentali, e quindi cosa vinciamo? Ma una pacca sulla spalla sicuramente. Poi dipenderà dalla qualità delle risposte, ma la qualità delle risposte dipende dalla qualità delle domande, quindi scelgo la busta numero 2. Sergio, io ti ho conosciuto come meraviglioso narratore per immagini di mondi di fantascienza, di astronavi, sulle pagine di Zona X e delle storie della Legione Stellare, da lettore. Accidenti. Che ricordo hai, così partiamo un po' da un punto preciso della tua carriera e in generale di disegnatore di fumetti, che ricordo hai di quella serie speciale Legione Stellare? Accidenti. Allora, la premessa è che io sono appassionato di fantascienza da sempre. Prima di diventare un fumettista ho fatto un lavoro vero, quindi però dovendomi guadagnare da vita. Allora io ho una certa età, no? All'epoca dire faccio fumetti non era dire hai delle prospettive di lavoro sicure, no? Quindi vai a fare un lavoro vero. Quindi ho lavorato per anni in un'agenzia di pubblicità, facendo prima il grafico, poi l'illustratore, poi l'art director, insomma. Poi ho avuto questa opportunità, non sto a raccontarvi il come, non, perché è stata una cosa diciamo un pochettino rocambolesca, di entrare a far parte dello staff della Sergio Bonelli Editore. È stata fumettistica anche l'avvio della tua carriera. Sì, è stato meglio non so se si può raccontare, poi magari ne parliamo. Ah, ok. Comunque io tra le altre cose erano gli anni 90, era appena uscito Nathan Never, e quindi io da appassionato di fantascienza non ho potuto fatto assolutamente perdermi questo primo numero di Nathan Never, mi ha in qualche modo folgorato e quindi ho mandato delle prove alla Bonelli con soggetto appunto Nathan Never. Queste prove sono andate, diciamo, discretamente bene, quindi dopo tutta una serie di prove e controprove io ho iniziato appunto il mio primo incarico per la Bonelli. Non è stato Nathan Never perché evidentemente non ero ancora all'altezza per affrontare un personaggio che all'epoca, ma anche adesso, comunque è uno dei personaggi di punta della casa editrice. Però c'era questa trasformazione di Zona X che da contenitore di storie, diciamo, singole ospitava per la prima volta delle miniserie. Quindi una di queste miniserie che era in lavorazione era Legione Stellare, scritta da Federico Memola, ed era una space opera. E quindi io, appassionato di fantascienza, mi ero proposto per Nathan Never, inizio nel mondo del fumetto con una space opera, fantastico. Quindi i ricordi che ho di quella cosa, di quella serie, sono fantastici per me, a parte l'entusiasmo di iniziare una nuova avventura, di progettare mondi, personaggi, certo, astronavi e quant'altro. Mi ricordo, mi sono costruito l'astronave di cartone per avere i riferimenti. Okay. Insomma, quindi... Immagino che sia molto difficile, comunque, al di là dell'impatto visivo meraviglioso per i lettori, disegnare fantascienza, nel senso disegnare astronavi, mondi alieni, ha tutta una serie di difficoltà tecniche. È un problema, cioè tecnicamente un disegnatore anche bravissimo può avere delle difficoltà nella fantascienza, perché come dice Antonio Serra, uno dei creatori appunto di Nathan Never, col quale, cioè, io adesso attualmente sto collaborando anche su una sua sceneggiatura, lui dice ovviamente disegnare il western, ok, va bene, hai dei riferimenti realistici precisi, disegnare Dylan Dog, se devo disegnare il maggiolino di Dylan Dog è quello, prendo un riferimento, una fotografia, quindi ho dei riferimenti ben precisi. Nel momento in cui io dico a un mio disegnatore, dice appunto lo sceneggiatore Antonio Serra, fammi un'astronave tipo il Millennium Falcon, ok, però non me lo puoi disegnare pari pari perché deve essere un'altra cosa, cioè io l'idea che voglio e che trasmette, okay, è quella simile, però poi il mondo te lo devi inventare, l'astronave, okay, te la devi inventare, l'abbigliamento te lo devi inventare. Quindi non tutti i disegnatori alle prese con la tecnologia o comunque con diciamo il design proprio delle ambientazioni e dei mezzi si trova proprio a proprio agio. Sì, beh, c'è un'oggettiva difficoltà nel reinterpretare, non hai solo, puoi prendere dei riferimenti, ma quei riferimenti che prendi sono già creature, esatto, dell'immaginazione, e quindi devi lavorarci su. Esatto, sì, e quindi la difficoltà è rendere credibili questi mondi, questa tecnologia, comunque coerenti con quello che esatto, tutto il racconto, quello che si sta appunto raccontando in quel momento. E mi pare che tu abbia poi lavorato anche con Antonio Serra su Greystorm, un'altra miniserie, e anche lì c'era tutto un discorso più di steampunk, comunque di invenzione di un retrofuturo. Lo steampunk è un sottogenere della fantascienza che ha avuto varie ondate, sembrava fosse ritornato negli ultimi anni, poi ha coordinate geografiche, storiche ben precise, quindi vive e muore a periodi. E lo steampunk è semplicemente immaginare un futuro dall'aspetto di passato, immaginare astronavi a vapore oppure mezze tecnologie come avrebbero potuto nascere a cavallo tra fine Novecento e primi, cioè a cavallo tra fine Ottocento e primi anni del Novecento. Quanto lavoro di costruzione di quell'universo ci fu per Greystorm? Beh, Greystorm, soprattutto da parte del creatore, sempre Antonio, lui, diciamo, Greystorm nasce dalla passione di Antonio per Giulio Verne, quindi lui si è riletto sicuramente più e più volte tutti i romanzi, la genesi è partita da lì, quindi ci sono anche delle cose che dal punto di vista tecnologico erano, per l'epoca dell'ambientazione del fumetto futuribili, ma del tutto realizzabili ancora oggi, perché poi lì appunto abbiamo sommergibili, abbiamo dirigibili, aeroplani, però tutto era veramente... Io su quel progetto sono entrato in corsa, ho disegnato un episodio, però ricordo che tutto lo studio dei mezzi, delle ambientazioni, della tecnologia che erano stati realizzati da Gianmauro Cozzi, che ha curato anche le copertine della serie, era stato un lavoro veramente enorme sulla base di tutte le indicazioni appunto ricavate dalle letture di Antonio e anche dello studio della tecnologia, che era, tra le altre cose, piccola curiosità, Antonio, studiando appunto quest'epoca vittoriana, mi disse: guarda, esistevano già addirittura i pannelli solari, perché li facevano con delle scatole di metallo, mettendoci dentro, non mi ricordo più quale tipo di sostanze, mi pare dell'ammoniaca, ma effettivamente erano dei progetti che già si stavano studiando ed erano realizzabili, quindi fantastico. Sento una vibrazione, credo che sia il tuo telefono, ok. Ah, ok, cosa che vibrava. Parlavamo di uno degli elementi a volte nello steampunk è anche l'inserimento di onde strane, sorgenti di energie strane, quindi c'era già qualcosa che vibrava misteriosamente. E, Alberto, ti stai distraendo, ti vedo... Ah no, sei social, sei very social. Sì, sì, sto mettendo in diretta sulla pagina. Fantastico. Di Ricerca del Faro. E il tuo account Twitter, nome Twitter, se qualcuno vuole anche cercarti? Sai che non me lo ricordo, l'hai appena utilizzato te. Ti ho appena retweetato. Credo Alberto al Pozzi Foto. Alberto al Pozzi Foto, chiocciolina al Pozzi _ foto. Invece io sono chiocciolina Fulvio De Cat, se volete interagire, se qualcuno è online in questo momento e vuole twittare, noi vi ignoreremo naturalmente perché siamo troppo saputi. No, non è vero, invece ci piacerebbe molto interagire, se qualcuno vuole fare domande faccia. Rimbalzo subito una domanda ad Alberto, perché mi piace ribaltare completamente questa questione. Da mondi e macchinari che sono frutto dell'immaginazione e vengono disegnati, ha qualcosa come carri armati, mezzi di guerra che noi vediamo in televisione, sì, ma in zone di guerra ti trovi faccia a faccia, li vedi, sì. Che effetto fa? Qual è la prima impressione a vedere questi scenari di guerra con i propri occhi e a maggior ragione doverli fotografare? Hai detto bene, doverli fotografare. Quindi quello che può essere un'emozione che uno può avere di fronte a certe situazioni viene abbastanza tenuta, almeno per quanto mi riguarda, sotto controllo, perché sono concentrato nel creare un'immagine. Certo. Quindi quello che mi si pone davanti per me è un'immagine, un elemento di comunicazione, quindi penso a quello che voglio raccontare, penso a quello che voglio vedere e riesco ad estraniarmi dalla situazione che sto vivendo in quel momento. Percepisco poi eventualmente dopo il ritorno a casa quello che ho fotografato con maggiore enfasi e maggiore emozione di quello che invece in diretto non ho provato. Metti la macchina fotografica davanti. Sì, è un filtro. È un filtro oltre che un mestiere, cioè è un mestiere, ma in quel caso diventa un filtro e in certe situazioni diventa anche un'arma volendo. Ok. E parlavamo con si sta costruendo un piccolo discorso tra le varie puntate, perché Patrizia Comino, che è una disegnatrice e illustratrice che ho avuto ospite qui e stavo lavorando al logo del programma, anzi è pronto, un momento o l'altro lo tireremo fuori dal cilindro, aveva fatto questo interessante parallelismo che adesso chiedo a tutti e due se secondo voi è vero. Non c'è così tanta differenza tra illustrare e fotografare, perché comunque tu devi scegliere che cosa mettere nel quadro. Sergio, ho ragione? Dunque, com'era la domanda? Non è così diverso questa, fotografare e illustrare, perché tu l'importante prima di tutto è quali elementi metti nel quadro e come li metti nel quadro. Dunque, io non sono un fotografo, quindi bisognerebbe, cioè per me ovviamente nel momento in cui uno fa una creazione, non dico dal nulla, però disegna, insomma sei padrone di tutti gli elementi, no? Quindi in qualche modo sei tu che scegli, al di là dell'inquadratura, scegli ovviamente arbitrariamente come sistemare le cose in maniera tale da ottenere l'effetto desiderato, no? Quindi quello mi dà fastidio, lo elimino, lo sposto un po' più in là, eccetera. No? Quindi penso che invece nella fotografia, se hai una visione o comunque diciamo hai presente un taglio dell'immagine, di luce, però comunque la realtà ce l'hai lì davanti, non la puoi modificare a tuo piacimento, no? No. Quindi qual è adesso chiedo io a te, Alberto. esatto, comunque ha già introdotto e spiegato già bene a Sergio il concetto che l'illustratore ha la possibilità di scegliere cosa mettere, cosa non mettere, se ci sono degli elementi di disturbo non disegnarli, o comunque già nella fantasia immagino che gli elementi di disturbo non ci siano. Ma magari alle volte ci sono, perché poi uno, sei nel caso del fumetto costretto da una sceneggiatura, quindi ha un tot di elementi che devono essere riconoscibili, messi comunque per forza nella vignetta, quindi devono avere il peso giusto, poi comunque devi raccontare una storia, no? Mentre invece in una fotografia magari non racconti una storia in sequenza, ma stai comunque veicolando, stai una riprendendo quello che hai davanti. Poi è indubbio che non puoi fotografare una cosa, una storia, una situazione che non conosci. Non è che ti inventi dall'oggi al domani, io parto, vado in una qualunque zona del mondo e mi metto a fare fotografie random. Conoscere il luogo, conoscere la cultura, conoscere il mondo nuovo che magari vai ad affrontare è una condizione necessaria per fotografare. Indubbiamente ci sono degli elementi che possono piacere, possono non piacere, possono disturbare o meno. La composizione viene creata dall'ottica che utilizzi, dalla tua distanza dal soggetto, dalla capacità di previsione, di essere un po' più avanti, di essere un po' più indietro, di precedere una qualunque cosa e puoi scegliere che cosa inserire, ma ci sono elementi che non puoi indubbiamente togliere. Cioè, all'università quando faccio lezione ai ragazzi dico è indubbio che i pali della luce non li possiate levare dalle vostre inquadrature, nemmeno i bidoni della spazzatura o il classico camion dei traslochi che impalla la vostra foto, ma posizionarvi leggermente a destra affinché non diventi l'elemento principale o il soggetto della vostra foto, questa è una condizione necessaria. Questo è uno spunto molto interessante. Poi facciamo subito una pausa, la prima pausa per la prima canzone, poi approfondiamo. Mi piace molto questo parallelismo, illustrazione e fotografia, magari abbiamo ancora qualcos'altro da dire, magari noi invece parleremo di tutt'altro perché abbiamo tantissimo da dire, abbiamo solo un'ora di trasmissione, quindi adesso passiamo a Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, è un pezzo che fa più o meno così. Il brano era breve perché abbiamo tantissimo da dire, quindi oggi sono solo nuvolette, c'è una pagina Facebook sono solo nuvolette, se cliccate mi piace siamo tutti contenti. Abbiamo qui Sergio Giardo e Alberto Alpozzi, illustratore e fotoreporter, anche se in realtà per entrambi riassumervi in un solo aggettivo è limitante. Per dover parlare di qualcosa insieme mi conduce direttamente a un certo progetto che avete insieme. Sì. Un barbacicico co, chi ne parla? Magari da Alberto, visto che Alberto. È partito dalla tua... Sì, dal abbiamo tuo un lungo progetto insieme che ci coinvolge e riguarda l'Afghanistan. Quindi nasce comunque dalla tua esperienza? Nasce da quello che io ho vissuto, da quello che ho visto, da quello che ho documentato in Afghanistan a seguito delle forze armate italiane. Dopo che ho fatto diversi reportage, ho pubblicato diversi articoli, ho visto comunque che un certo tipo di notizie, un certo tipo di comunicazione alle riviste, ai quotidiani, non interessano più di tanto, comunque non hanno appeal, no? Okay. E allora mi sono domandato quello che poteva essere il medium per raccontare tutto quello che è, tra virgolette, l'avventura in Afghanistan dei nostri ragazzi, per poterla raccontare a chiunque, a tutti. E ho detto, io ho delle fotografie, ho dei racconti, l'ultima volta che sono stato in Afghanistan ho scritto anche un diario che ho aggiornato costantemente anche online, che scrivevo dei posti più impensabili, nelle situazioni più impensabili. E ho detto, mixiamo queste cose qua, fotografia e testo. E ho detto, però manca ancora quel trait d'union. Cos'è che unisce la parola e il testo? È il fumetto. Certo. Allora cosa ho fatto? Ho disturbato, non poco, perché non l'ho preso per fame e per sete. No, assolutamente. No. Sergio, gli ho proposto il mio progetto, quello che avevo in testa, come avrei voluto realizzarlo, per poter creare questa graphic novel sulla quale adesso stiamo lavorando, per raccontare la vita in Afghanistan. La vita in Afghanistan in una situazione di crisi vista da un fotoreporter che documenta la vita dei militari italiani durante una missione. Ok, Sergio, la prima cosa che hai pensato quando Alberto ti ha proposto questo? È pazzo? In effetti ho avuto dei dubbi perché ho detto, ma scusami, sei andato là, hai fatto le fotografie, che bisogno hai dei fumetti? Cioè hai documentato, hai la tua esperienza, il tuo diario che appunto era pubblicato su internet, a che cosa servo io? Poi lui, adesso a parte gli scherzi, è molto bravo a raccontare, no, la sua esperienza, infatti ha già tenuto diverse conferenze, ma comunque ha parlato molto, no, di questa sua esperienza. Farei un'altra conferenza, tra l'altro facciamo anche pubblicità domenica all'Industrial Village della CNH Iveco, all'interno della manifestazione History and Glory, dove farò anche una mostra fotografica dedicata ai mezzi militari impiegati nelle zone di crisi, e farò una conferenza la mattina dalle 10 e poi sarò il pomeriggio accompagnato comunque dalle forze armate. Ok, visto che possiamo dare solo brevi flash qui, se qualcuno volesse approfondire poi l'esperienza di Alberto, sa dove ascoltarlo. A Torino. E quindi ho ascoltato queste le sue esperienze, no? La sua storia. Effettivamente mi parlava di storie di varie umanità, no? In questa esperienza straordinaria, nel vero significato della parola, no? Cioè io faccio una vita ordinaria, no? Mi alzo al mattino, faccio il mio disegnino, guardo il telegiornale, o leggo i giornali, non mi trasmettono quello che... insomma, io sono come l'uomo medio, mi informo attraverso i canali comuni di comunicazione e vari media. Dell'Afghanistan avevo un'idea, che è quella che più o meno si possono fare tutti con un'informazione, passatemi un po' il termine, limitata, no? Di cui possiamo godere. Invece avere un'esperienza diretta, soprattutto dell'aspetto umano di questi mi aveva colpito la cosa che lui diceva di questi lavoratori, di gente che va là e fa questo lavoro particolare. E effettivamente da lì ho capito che quello che lui mi stava raccontando non si poteva raccontare attraverso le fotografie, che erano i ritratti di queste persone, ma trasmettevano, diciamo, qualcosa, ma non tutto quello che stava dietro, i rapporti personali, la sua esperienza personale e poi veramente aneddoti, microstorie, situazioni che andavano in qualche modo raccontate, perché sì, proprio per le prime volte che ci vedevamo a casa sua, nel suo studio, lui mi filmava con la telecamera. Ah, ok. Gli raccontavo le cose, mi filmava, prendeva appunti, mi faceva domande o parlavo, cosa più facile, a ruota libera, anche di tutte le i vari aneddoti. Hai tantissimo da raccontare, immagino, su quella... Ma credo oramai che a Sergio di aver raccontato tutto, o quantomeno la gran parte. Però sì, ho raccontato un po' di cose. Quanti giorni, quante durate le due missioni? 15 giorni, 15 giorni, sì, 10-15 giorni. Beh sì, noi non siamo addestrati. Noi non siamo addestrati, non è... È dura la vita. No, beh, penso che sia stato comunque un periodo intenso, cioè due settimane. Sì, sì, sì. Ti cambia il modo di vedere la quotidianità. E cosa hai catturato? Quali sono le prime cose che hai carpito, che hai detto, questo si può mettere in immagine? Beh, sì, appunto, forse la prima tavola, quella dell'internet point, quella situazione che lui mi aveva raccontato mi aveva molto colpito, ed era una situazione... dunque questi soldati hanno a disposizione appunto un locale molto spartano dove possono comunicare in orari limitati. Sì, non sempre c'è la linea o internet o telefonica, poi dipende dai momenti, però sì. Ecco, e quindi hanno la possibilità di chiamare casa, di contattare le famiglie. Quindi, vuoi dirlo tu, Alberto, che hai vissuto in prima? Sì, la cosa particolare è che ti trovi dall'altra parte del mondo dove devi fronteggiare delle situazioni che non pensi nemmeno esistano, e dall'altra parte ti senti un padre di famiglia che magari mezz'ora prima era nel deserto a compiere una missione, e poi invece parla con la moglie chiedendogli dell'idraulico, della pagella della figlia. Okay. Ma a che ora è tornato? Il motorino ha la benzina, l'ha cambiato l'olio, chiediglielo che funzioni, che poi se non gli si grippa. Ma dille di tornare presto. Ma ce l'ha ancora il fidanzato? Ma con chi esce adesso? No, ma guarda che c'è la rata del mutuo che scade. Cioè, a continuare a occuparsi di quella che è la quotidianità a casa mentre sei dall'altra parte del mondo. E questo fu veramente un flash, uno scollamento da quello che era la situazione, perché è proprio surreale. Non è reale né là né qua una situazione del genere. Ok. Colpisce Colpisce. A me questa cosa mi colpì, perché io immaginavo in una situazione, dovendola sceneggiare, no, dell'apprensione della moglie nei confronti del marito, ma come va lì, che cosa sta succedendo, ma siete in pericolo. Invece no, la situazione era ribaltata, no? Lui che da capofamiglia diceva, si preoccupava. Allora l'amministratore è arrivato, hai pagato la rata, no, ma ci penso io, guarda, poi lo chiamo io, non ti preoccupare Maria, faccio così. Sì. E quindi questa era una bellissima situazione da raccontare attraverso il fumetto, no? Per rendere appunto l'umanità, no? La quotidianità Esatto, quello che a me interessa, che è sempre interessato quando sono partito per fare reportage, era raccontare la vita di italiani all'estero. Quindi al di là di quello che è la comunicazione mediatica di una missione internazionale, non mi interessava raccontare la parte strategica, la parte politica. Mi interessava far passare quel messaggio di come delle persone, dei ragazzi dai 20, 24, 25 anni o dei padri di famiglia con qualche anno in più, vivano la loro quotidianità laggiù, far capire qual è la loro vita per 6 mesi, mentre noi continuiamo la nostra qua in Italia. Sì. che è quel messaggio che ha bisogno di una storia. Non è sufficiente un reportage di una pagina, di due pagine, quattro foto e un titolone da chiappo. Ha bisogno della sua dignità, della sua storia, di un racconto. E poi qui l'editore e Sergio mi hanno anche un po' fregato, perché la mia idea era di raccontare, come nel mio diario, tutto quello che era questa storia. Loro due un po' in combutta, no, deve essere una storia, quindi è la storia di un fotoreporter. E quindi hanno, a mia insaputa, messo come protagonista, cosa che io, abituato a stare dietro la fotocamera, faccio vedere attraverso i miei occhi. Io invece, in questi disegni che sta realizzando Sergio, sono protagonista, cioè quindi c'è la storia di un fotoreporter che parte da Torino, va in Afghanistan e poi ritornerà a casa col suo bagaglio di storie da raccontare, che racconta all'interno di questa graphic novel. Certo, hai cambiato la persona narrativa del racconto. Sì, beh, poi comunque nella storia c'è bisogno del protagonista, c'è bisogno del personaggio in cui identificarsi, no? Poi Alberto è il lettore, no? E siamo noi che attraverso i suoi occhi viviamo la sua esperienza, quindi diciamo dal punto di vista narrativo quasi un passaggio obbligato, tutto sommato. E poi Alberto è un bel personaggio. Bellissimo. No? Con, bellissimo. Quella come l'ha definita lui, con la sua barba tattica, ecco. che gli serve. Avevamo fatto il botto in Sardegna quando avevo detto barba tattica, poi online sono andati avanti una settimana a scriverci della barba tattica. Per chi lo conosce, lui ha questo aspetto da talebano. È mimetico. È mimetico. Okay. Quindi che effettivamente anche questa cosa fa parte del personaggio, adesso a parte gli scherzi, però in qualche modo mette lui al riparo da certi sguardi e gli consente di muoversi più agilmente in quei territori, no? Correggimi se sbaglio. Sì. Quindi effettivamente la definizione, la barba tattica, cioè non è vero, tutt'altro, no? Che una butad. No, fa parte dell'equipaggiamento quasi, no? Sì. E comunque Francesco Guccini racconta che era andato negli Stati Uniti e poi è tornato con la barba perché non voleva più guardarsi in faccia, non voleva nascondersi la faccia, quindi è più una questione di nascondersi verso un ambiente ostile, difendersi da un ambiente... No, è rispettare il luogo in cui vai, okay, dove la barba è ancora un retaggio culturale e sociale. Okay, l'anziano certo. Ha la barba lunga, l'anziano quindi è saggio, merita rispetto. La barba è anche un modo utile per interfacciarsi con i capivillaggio e con i ragazzi, certo, anche per strada. Ma tu l'hai fatta crescere prima di partire? No, o già io l'ho l'avevi? Sempre avuta. Semplicemente okay. Smetto di tagliarla o di livellarla qualche tempo prima di partire, in modo tale che poi arrivo là un bel barbone. Ok. No, perché io ho il pizzetto sul passaporto e ogni volta che vado devo usarlo, poi rifaccio ricrescere il pizzo, perché vuoi mai che mi dicano non è lei. Non è lei. No, la barba ce l'ho sempre. Ok. Il programma corre veloce, è già tempo della seconda canzone che attinge al repertorio dei Deep Purple, e pensavo, visto che io ho conosciuto Sergio da narratore per immagini di fantascienza, un pezzo che di per sé ha la fantascienza nel titolo, che è Space Tracking dei Deep Purple. Alessandro, quando vuoi. Alessandro in regia ci fa partire la canzone. E rieccoci dopo i Deep Purple, Space Tracking. È di fantascienza uno dei nostri... abbiamo due libri di entrambi gli ospiti, quindi abbiamo anche parecchie cose di cui parlare, anche del presente, non solo di un progetto in corso d'opera e delle rispettive radici di cui abbiamo dato qualche piccolissimo cenno. Il fronte ovunque, il titolo. Ok, il fronte ovunque... Un'idea di un periodo di uscita potrebbe essere? Sergio? Okay. A me lo dici? No, non ce l'abbiamo ancora. No, vabbè. No, siamo ancora in lavorazione. In realtà sì, diciamo che in questo momento Alberto è molto preso dall'uscita del suo nuovo libro, dal faro di Mussolini. Io per altri versi, combinazione abbiamo avuto... In concomitanza, esatto. In concomitanza, un altro paio di progetti che si sono inseriti in mezzo. Ma nello stesso periodo sono usciti entrambi. Per il prossimo futuro, il fronte ovunque, sì, 001 edizioni. È d'obbligo portarlo a termine. Assolutamente, dopo il tempo dedicato. Ok. Sì, sì. Accennerò quando sarà pronto, quantomeno, se non ho occasione di riavervi in radio, quantomeno ne accennerò, così se bene, qualcuno... Grazie. Invece i libri già usciti, che sono qua e chi ci guarda in webcam può vedere, uno si intitola Roy Rocket ed è Sergio Giardo, questa volta copertinista, perché questo penso che sia scontato, ma anche romanziere. Sì. È un romanzo per ragazzi o... Io dico che è un romanzo per ragazzi di tutte le età. Ok, cioè, bella. Nel senso, perché io mi sento un ragazzo, nel senso che in questo lavoro ho messo tutte le mie passioni, che ovviamente derivano dalle cose che, come tutti, uno vive in età giovanile, adolescenziale, certo. Sono le cose che ti colpiscono, quindi io ho vissuto da ragazzino la conquista della luna in diretta, perché ancora ho visto le dirette della luna, quindi da ragazzino sognavo lo spazio, e poi è arrivato Guerre Stellari, poi sono arrivate le serie di fantascienza, insomma, quindi diciamo un immaginario più cinematografico e televisivo che letterario in questo caso. E quindi questa storia di Roy Rocket è sicuramente un'avventura spaziale fantastica, non è, diciamo, proprio fantascienza pura, è più vicino a un racconto di tipo fantastico come potrebbe essere Guerre Stellari, dove okay. non c'è questa attenzione alla tecnologia, ma quanto proprio alla meraviglia del... Nella classificazione di solito viene definita space opera o comunque avventura spaziale, quando sì. l'enfasi non è tanto sulla tecnologia quanto sull'avventura. No, sì, Star Wars potrebbe essere di per sé, Star Wars Guerre Stellari è un fantasy con una proiezione della tecnologia, di quella che potrebbe essere la tecnologia, solo per dare qualche pillola qua e là agli ascoltatori. Non avrei saputo dirlo meglio. Perfetto. Parla pa. Basta. E quindi ci sono tutte queste mie passioni, è una storia di avventura da ampio respiro, che secondo me è sicuramente indirizzata a un pubblico giovane, ai ragazzi, però quelli, siccome ci sono ovviamente dentro tutte le mie passioni e sono ampiamente citate all'interno di questo lavoro, io credo che anche un nerd di mezza età possa apprezzare e riconoscere tutti i riferimenti che ci sono dentro questo okay, romanzo. Ok, quindi tu avevi questa storia da raccontare, come sì. mai non un romanzo, non un fumetto? Che poi dire fumetto è un po' sminuente, ma un romanzo a fumetti... Avevo questa storia da raccontare, in realtà è nato come un fumetto Roy Rocket, diciamo che è un progetto, è il classico lavoro che il fumettista tiene nel suo cassetto da una vita, no? È il personaggio che mi accompagna, diciamo, da 30 anni. Sì, 30 anni. Quindi Roy Rocket in varie incarnazioni è sempre stato lì un pochettino, ogni tanto ha fatto capolino nel cassetto, è stato presentato in maniera molto timida. Io non sono uno molto bravo nell'autopromozione o nel propormi, come invece Alberto, lui invece è molto più... E la barba. Molto è più la barba, attivo, la barba. No? Io sono un pochettino timido, insomma. Quindi timidamente ho provato a proporlo a qualche editore nella sua versione fumetti. Poi... col passare dell'epoca, diciamo, la storia di Roy si ampliava sempre di più, diventando proprio un'epopea, una saga complicatissima. Io mi sono reso conto che l'avrei perso per strada se mi fossi concentrato sul disegno, perché poi disegnare queste cose porta via molto, molto certo. tempo, no? Quindi dagli appunti ho detto, vabbè, ma proviamo a metterla un pochettino giù questa storia, vediamo un po' che cosa potrebbe uscire fuori. E quindi dal disegno sono passato solo più al racconto, senza curarmi delle immagini. E nel corso, insomma, quindi il tempo è passato, cioè è un lavoro veramente lungo, e da lì è nato questo primo romanzo, che dovrebbe essere, nelle intenzioni, solo il primo capitolo di una serie. La stesura ti ha richiesto parecchio tempo? Sì, beh, poi teniamo conto che non è un lavoro che uno fa in continuità, certo. quindi lo fai nel tempo libero, poi ci sono i momenti di pausa, poi ci sono le scadenze lavorative, quindi sì, diciamo che... diciamo, la prima stesura completa credo che sia del 2011, okay. poi ancora delle revisioni, delle proposte, perché poi ovviamente non è che uno finisce un lavoro e c'è la coda fuori dalla porta con tutti pronti, dice sì lo voglio, no, quindi poi bisogna proporsi, modificare, limare. C'è stato un grande lavoro di editing di questo editore che poi ha accettato questo lavoro, che è Plesio Editore, un editore giovane molto attivo nel campo del fantasy, no? E molto professionale da questo punto di vista il lavoro che abbiamo fatto insieme per arrivare all'edizione definitiva. E quindi sì, diciamo che i tempi di lavorazione sono stati abbastanza lunghi e ragionati. Capita a volte di parlarne su queste frequenze, c'è un po' di difficoltà, l'industria e il fantastico, l'industria culturale in Italia ha qualche problema col fantastico e con la fantascienza. Decisamente. E quindi immagino tu abbia bussato a più porte per arrivare. Sì, beh, come si fa in questi casi, poi si ha il manoscritto, si spedisce, si manda, si invia un po' a 360 gradi. Le risposte per lo più sono sempre quelle, diciamo, standard. Quando arrivano. E a volte non tanto per demerito, ma tante piccole strutture, piccoli editori non sono in grado di gestire il controllo del flusso, la valutazione, una vera valutazione. No, perché poi vabbè, è vero che ricevono tantissime proposte, quindi poi i grandi non hanno neanche il tempo. Poi effettivamente la fantascienza, il fantastico in Italia non è che abbia, insomma, un grande riscontro, onestamente, quindi è comunque un settore abbastanza di nicchia. La mia speranza, chi lo sa, che un giorno comunque che questo Roy Rocket riesca a farsi abbastanza strada qui in Italia da essere notato, e chi lo sa, magari avere anche un futuro al di fuori dei nostri confini, dove invece questo genere è molto più apprezzato. Cioè, vogliamo un film. Ovviamente, no? Arriviamo lì poi alla fine. Una trilogia almeno. Ovviamente. Il prossimo... Sergio Giardo, il prossimo. Ma stavo cercando un nome di qualche autrice di queste saghe, tipo. Però non mi viene né il nome della saga, a parte Twilight che fa cagare, scusate il francese, ma è un paranormal romance. Per i nostri standard, siamo seri, per i nostri standard di lettori che arrivano da una certa tradizione del. Non so le vostre radici culturali, credo che quelle di Sergio siano molto vicine alla mia. Però comunque il genere del vampiro, del fantastico molto codificato, ritrovarsi la storia romantica adolescenziale come Twilight può aver fatto breccia in determinati lettori, ma nel lettore un po' scafato ha fatto un po', ma neanche storcere il naso, dire ah quella roba lì, ah sì, ah i vampiri che glitterano. Quindi ho avuto, questo spiega perché il mio cervello non si è acceso quando cercavo il nome di una qualsiasi autrice di adesso di culto, di quelle che fanno tipo. Ma io guarda, se devo dire, ecco, adesso mi è venuto in mente il momento in cui io ho deciso di far diventare Roy Rocket un romanzo e non un fumetto. È stato quando io ho letto il primo libro, e ancora non era un fenomeno, però insomma, ne avevo letto in rete, insomma, bene, il primo libro di Harry Potter. Okay. Perché è stata la prima opera, ho detto guarda, questo è stato studiato, cioè è un prodotto che si rivolge ai ragazzi, ma è diventato veramente un fenomeno perché secondo me è trasversale, cioè certo, perché poi è un giallo, c'è la componente ovviamente romantica, no? Dei rapporti tra i personaggi, eccetera, è una saga, però c'è il fantasy reinventato, cioè non ci sono effettivamente degli elementi nuovi, no? Però c'è un ambiente in cui tutti si riconoscono che è l'epoca della scuola, no? Tutti noi abbiamo dei ricordi legati appunto a un periodo molto particolare, ci sono tutti gli elementi che ci devono essere in quel tipo di narrazione fantastica, ed era anche una narrazione appassionante, no? Veniva voglia di andare avanti, cioè, io ho letto molto velocemente e ho detto guarda che si può raccontare però un'avventura, se vogliamo, leggera, però con questo tono quasi da thriller, no? Sì. Ecco, e quello ho detto però allora anche Roy Rocket, che insomma, precisiamo, c'è tutta una storia di battaglie tra civiltà aliene, ci sono gli alieni, cioè quelli dei dischi volanti, che tra l'altro è un elemento che negli ultimi anni è stato un po' abbandonato, no? Io ricordo le serie tipo X-Files e così, ma prima al cinema, dopo Spielberg, pochissimi hanno trattato questo argomento, no? Quindi che è stato un po' abbandonato perché poi, appunto, è arrivata la magia, poi sono arrivati i vampiri, sì. Poi prima c'erano i dinosauri, però e gli UFO e i dischi volanti? Ne parlavamo con Gianni Lacorte, che è un editore, Lacorte Editore, che segue un po' questi filoni. Ci sono queste esplosioni di sottogeneri, sì. E quasi sempre un fenomeno è una saga che poi diventa anche una saga letteraria, che poi diventa anche qualcos'altro, crea il fenomeno e si crea un filone. Esatto. Però non necessariamente hanno breve durata questi fenomeni, è strano. E riguardo ai dischi volanti, secondo me è un po' sparita perché non è più fantascienza, è neomitologia. Cioè tutto il patrimonio che viene dall'Area 51 agli alieni grigi all'abduction oramai è patrimonio di tutta una serie di persone che magari non hanno niente a che fare con la fantascienza e non conoscono la fantascienza. Non è fantascienza quello, è... Sì, poi c'è anche lì un mondo confina con le leggende urbane. Sì, sì, esatto. E quindi, tu quindi hai scritto un romanzo di fantascienza o space opera che però ha anche degli elementi di questa neomitologia urbana, quindi di Dischi Volanti. Eh sì, tutto, adesso non facciamo troppi spoiler, però diciamo i Dischi Volanti ci sono, okay. ci sono i grigi, ci sono, okay, c'è tutta, okay. In realtà il tema portante del lavoro è molto legato alla fantasia, mm-hmm. cioè la saga, al di là dell'avventura in sé del primo volume, che cioè è leggibile al di là di quello che può essere la continuazione, mm-hmm. quindi ha un suo inizio, uno svolgimento, una fine diciamo giusta. Però c'è un mistero da svelare in questa saga di Roy Rocket, che è legato proprio al ruolo della fantasia nella nostra evoluzione. Quindi io ho la pretesa, la presunzione di spiegare che cos'è la fantasia. Bello, perché in Roy Rocket la fantasia è reale. Okay. Quindi diciamo che il mistero è come mai questa fantasia, e da dove arrivi questa nostra fantasia, che è quella che ci dà la capacità di fantasticare, quindi di andare avanti, no? Perché senza poter fantasticare noi non possiamo inventare cose nuove, andare esatto. avanti. Albert Einstein, quando immaginò come sarebbe viaggiare su un raggio di luce, e questo ha portato a una delle sue più grandi scoperte, quindi immaginazione e scienza anche viaggiano su binari vicini, quantomeno la immaginazione è necessaria per le nuove scoperte. Esatto. Il romanzo si intitola Roy Rocket, hai detto l'editore? L'editore è Plesio. Ok, Plesio si può ordinare, se non si trova in libreria può essere ordinato. Può essere ordinato, c'è in versione ebook sia su Google, su Amazon, su altri siti, insomma tutti gli store digitali, sul web. Okay. Sì, e anche in questo caso c'è una pagina Facebook. Pagina Facebook, sì, che io non curo come Alberto invece cura quella del fare... Eh no, Alberto, lui è bravissimo È nata come pagina di ricerca quella del mio libro. No, giustamente, ovviamente. Quindi ha avuto un seguito anche un po' di vabbè, prima che cominciate a darvi le coltellate, mando un'altra canzone e poi parliamo. No, la mia era sincera ammirazione per sì, lui. Sì, abbiamo sentito tantissimo. mandiamo un'altra canzone. Vuole farci litigare, sì, esatto, esatto. Questo è oramai la gente che parla tranquilla e contenta, non va bene, non ci piace, dobbiamo insultarci, esatto, esatto, okay. Esatto. Mandiamo un pezzo dei Pearl Jam dall'ultimo album, così la smettono di etichettarmi con uno che manda solo della musica del vecchiume. I Pearl Jam sono dei classici moderni, il pezzo si chiama Lightning Bolt dall'ultimo album omonimo. E non ci sono di mezzo macchinari per il viaggio nel tempo, eppure il tempo corre velocissimo sempre quando si parla di cose interessanti. Abbiamo parlato con Sergio Giardo del suo Roy Rocket, adesso parliamo con Alberto Alpozzi di Il Faro di Mussolini. Un altro universo, sebbene secondo me ci sia anche qua una storia da raccontare, che nasce però da una tua esperienza, da qualcosa che hai scoperto e che hai voluto ricostruire. Sì, e innanzitutto il parallelismo c'è, perché sono due mondi che non esistono. Almeno uno non esiste ancora, quello di Sergio, e quello mio del faro non esiste più. Okay. Non esiste più perché il faro è un faro di epoca coloniale italiana, costruito nel 24 e poi rifatto nel 30, che ho scoperto, tra virgolette, nel senso non è che ho scoperto proprio, sono andato a scavare, era lì, era presente, è presente tuttora sulla punta del Corno d'Africa, su quello, okay, che si chiama Capo Guardafui in Somalia. Okay. Fu costruito dagli italiani proprio per proteggere i naviganti, quindi i piroscafi commerciali e non, che da quelle parti transitavano, contro i naufragi e contro i pirati. Se n'era totalmente persa la memoria storica in tutti i modi, cioè proprio era stato, okay, abbandonato a se stesso. Io quando sono rientrato poi in Italia dopo il mio reportage sull'antipirateria, per curiosità mi sono domandato che cosa fosse, anche perché lo stato attuale, degradato e abbandonato a se stesso, la furia dei monsoni che lì imperversano come pochi, l'ha privato della lanterna. Quindi a quello che a me si è presentato la prima volta che l'ho visto era una torre di 20 metri di pietra a forma di fascio littorio con tanto di scure. Okay. Mancando la lanterna, lì per lì io, posto che ero concentrato su un altro tipo di documentazione, un altro tipo di lavoro, non mi sono posto troppe domande. Okay. La domanda fu: cosa ci fa un monumento proprio sulla punta del Corno d'Africa? Ho scoperto che non si trattava di un monumento, ma, okay, di questo faro, del quale ho visto che non vi era letteratura, non vi era documentazione, quasi niente anche in rete, se non qualche notizia frammentaria non del tutto corretta su Wikipedia, qualche cosa su siti internazionali, ma nulla più. Da lì ho iniziato, ho scritto un breve articolo di una pagina sul mio sito web, dove ho raccontato un po' quello che era la storia, avevo messo insieme tutte le informazioni web che avevo trovato, qualche cosa da qualche guida dell'Africa orientale italiana di quegli anni, e poi di lì è partita proprio una ricerca che comunque ha attraversato un anno e mezzo di tempo tra archivi militari. Infatti devo sempre ringraziare molto la Marina italiana, l'Aeronautica e le forze armate in genere, quindi anche l'esercito, che mi hanno fornito un sacco di documenti secondo le indicazioni che davo per le date, i personaggi e i luoghi, e tutto quello che poi è stato anche il ricercare sulle bancarelle, cioè proprio banalmente andando in giro per bancarelle, per antiquari o i semplici mercatini delle pulci, andando a cercare quello che erano libri, riviste, cartoline d'epoca afferenti al periodo che a me interessava. Okay. Perché ho proprio dovuto fare una ricerca su un elemento che era sparito da quello che era la storiografia proprio. Cosa che invece all'epoca, negli anni, fu un dibattito internazionale notevole, perché iniziarono a parlare della costruzione di questo faro già nel 1869, all'apertura del canale di Suez. C'è stato un documento più significativo che hai trovato che ti ha un po'... Documento più significativo, forse uno dei più importanti, è stato trovare la prima relazione tecnica del progetto del primo faro nel 1924, questo sì, contenuto in una sola biblioteca in Italia, quello è stato anche difficoltoso riuscire a ottenerlo. Trovare il nome del progettista, perché non si riusciva a trovare, del secondo faro, che è quello di cui abbiamo anche la copertina, che è quella forma di fascio littorio, perché il primo faro nel 24 fu costruito come un semplice traliccio metallico dall'Istituto Tecnico dei Fari di Napoli. Altre cose particolari, secondo me le cose più interessanti sono state le persone, i parenti dei guardiani dei fari, o di persone che conoscevano all'epoca e transitarono da quelle parti del faro, che mi hanno contattato di loro sponte, cercando, per esempio mi ha contattato già da Genova la pronipote dell'ultimo guardiano del faro, che mi ha consegnato, mi ha fatto visionare quando sono andato a Genova le lettere che suo zio mandava alla madrina di guerra, diventata poi sua moglie, da guardafui, scriveva e raccontava cosa faceva al faro insieme ai guardiani. Quindi più le persone che i documenti ufficiali sono state le utili. Cose che più mi hanno colpito, sì, perché sono quelli che hanno dietro delle storie reali, certo, delle storie vere. I documenti sono documenti, sono scritti da militari, da avvocati, in burocratese, cioè, quindi sono molto scarni, sì. Non hanno emozioni, non hanno la storia umana di esseri umani alla stessa maniera. Sono stato contattato anche da un'altra persona che ebbe il padre che transitò da guardafui e lasciò su una lastra il suo nome inciso, e tuttora è là. Okay. E mi ha contattato dicendomi: sì, mio padre fu là, guarda, qua in casa ho delle sue foto che mi ha consegnato mia madre, con WhatsApp mi ha fatto le foto al quadro, e io in uno di questi, dove c'era suo padre dietro, ho visto il faro che lui non sapeva fosse il faro da oggetto del mio libro. Ho detto: ma guarda che lì tuo padre si trova davanti al faro di guardafui. Okay. E lui non lo sapeva, cioè, ecco, questi sono stati forse internet documenti. È stato fondamentale per spargere la voce? Internet è stato fondamentale per spargere la voce, sì, anche perché comunque poi sono arrivato anche grazie a internet un po' in tutto il mondo. Comunque gli accessi al sito e alla mia pagina Facebook, che se mi permetti si chiama Faro Francesco Crispi 1924, okay, capo guardafui, ha accessi da tutto il mondo. Anche dalla Somalia, indubbiamente, perché comunque, certo, è il luogo dove si trova il faro, dall'Australia, dagli Stati Uniti, ma proprio anche perché è un punto nodale dei traffici, come lo era allora, lo è ancora oggi. Poi ha tutta la sua storia, che è quella del colonialismo, prima inglese, poi italiano, le guerre, le battaglie che ci furono, e tutta la ricerca che io ho creato attorno al faro riguarda un periodo di circa 70-80 anni di storia, non solo italiana, non solo europea, ma anche mondiale. Okay, certo. Comunque racconto di aneddoti che vanno al di là della semplice storia italiana che ci riguarda. Okay. Scusate, ma vogliamo dirlo che questo lavoro, perché è un lavoro di ricerca mica da ridere, no, infatti ti è stato richiesto anche da una certa università? Sì, me l'ha richiesto Harvard. Insomma, okay. Sì. Vabbè, ma qui penso che la metafora di Stephen King, del narratore della scoperta del dinosauro, sia Bini in questo caso. Tu hai cominciato a scoprire degli ossicini e poi hai trovato... Nel momento in cui sei innescato, ho trovato un mondo. Non avrei mai creduto che da una semplice cartella di Word potessi essere in grado di costruire un libro di 200 pagine con altrettante immagini. Anzi, sono, per precisione, sono 208 pagine con introduzione e prefazione. Tra l'altro, qua mi fa piacere ringraziare l'amico e collega Giorgio Ballario, che mi ha scritto l'introduzione, ma anche Giorgio De Vecchi di Valcismon, che invece mi ha fatto la prefazione. Mm-hmm. Anche perché io nella storia mi sono imbattuto in suo bisnonno, che fu Cesare Maria De Vecchi di Valcismon, governatore della Somalia italiana. Okay. Durante il suo governatorato venne realizzato il primo faro di Guardafui. Ok, c'è tanta storia e credo che sia un volume molto molto ricco. Vogliamo darne un po' le coordinate. Il faro di Mussolini, 001 edizioni, si può trovare in libreria, immagino. In libreria dal 6 maggio in distribuzione, attualmente in vendita online sul sito della 001 edizioni. Ok, perfetto. Mondi interi dentro i libri, dentro entrambi, credo, viene una gran voglia di leggerli entrambi. E credo di... se questa trasmissione ha permesso di far conoscere un po' questi due volumi, dare in modo... Di mettere l'acquolina in bocca a qualcuno e mettere curiosità. Poi ricordo che tra l'altro al di là della diretta che si è potuto seguire, che qualcuno ci ha anche visto con la webcam qui su www.radioarchimede.it, rimarrà il podcast, quindi poi mi hanno scritto prima in diretta che ci stavano guardando. Ah, fantastico, fantastico. Lui che dice che sono sociale, non potevamo esatto. non esserlo. Esatto. Io sono asocial. Esatto. Io sono asociale, però poi dal punto di vista informatico. Esatto. Sergio Giardo, Alberto Alpozzi, è stato un grande piacere avervi qui. Abbiamo potuto solo lanciare qualche piccolo flash di tanti argomenti interessanti. Speriamo ci sia occasione anche in futuro di riavervi o insieme o separati volentieri e portare avanti il discorso. Chiudiamo con un pezzo di Gianna Nannini, perché avevo finito i neuroni e non mi veniva in mente niente di abbastanza rock per fare filotto con la playlist di oggi. Comunque la Nannini ha avuto una bella storia, è ancora un esponente del rock italiano piuttosto importante, quindi America di Gianna Nannini, grazie a tutti. Appuntamento con Sono Solo Nuove Lettere la prossima settimana, sempre il martedì alle 15 su Radio Archimede. Ciao a tutti.